Ciao a tutti, benvenuti chierichetti e chierichette di Radio Cage. Sì, a testa croce show. E... io sono il fantasma di Vinci, ancora non incarnato. Come? No, no, ti sento in forma invece. Sì. Io invece vado verso la malattia. Ecco, comunque, bene. Un saluto dal Gab. Sì. Va bene, per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, magari c'è qualche nuovo acquisto tra gli ascoltatori. La puntata comincia adesso, ma no, vi siete persi 7 puntate perché questa è l'ottava puntata di Testa Croce Show. Solo adesso, dici, in tutti questi mesi. Assolutamente, okay. Sì. Ed è ottava puntata, una trasmissione in cui parliamo di religione. E è una puntata un po' speciale. Sì, un po' speciale. Conclude perché... un piccolo ciclo. Sì, sì, cioè, in un certo senso concorsone, sì. E oggi sapremo chi ha vinto. Chi ha perso, perché si perde. Beh, certo. Sì, abbiamo posto delle domande agli ascoltatori nelle scorse puntate e tra chi ha avuto la gentilezza, migliaia e migliaia di persone, di rispondere, appunto sorteggeremo tra i finalisti che ci sono, lo dico, beh, posso dirlo? L'abbiamo già fatto il sorteggio. No, non l'abbiamo già fatto il sorteggio. No, il sorteggio per scegliere i finalisti, ma non per decidere il vincitore assoluto. I finalisti, a me sono stati rivelati dei nomi dal divino, non so tu. Io ho sorteggiato. Ah, va bene, allora abbiamo un po'. Scelto in questo modo. D'accordo. Comunque, insomma, sorteggeremo tra i finalisti, questo sì, no? Sì, sì. In certo. Diretta, chi vincerà il premio che è? Vogliamo un viaggio ricordare. Per due persone nel Valhalla, ecco, solo andata, tanto non serve mai tornare al Valhalla. No, infatti, ma tra l'altro voglio dire che in questo periodo, no, di feste, ci sarà un fortunato che se non ha ancora fatto tutti i regali potrà contare su un regalo molto originale, no? No, nessuno si sbarazzerebbe mai così dei biglietti. No, sono due, quindi a uno. Ah, sì, no, giusto, giusto, sì, infatti. Poi si va al caldo, perché comunque... Sì, sì, sì, certo. Il Valhalla ci si scalda in tanti modi. Sì, in tanti modi, birra e vari altri. Sì, sì. Ricordiamo i contatti, sì, anche per questa puntata. Sì, sì, sì. Se volete mandarci un'email, il nostro indirizzo è testacrocesshow@gmail.com. Se volete scriverci su Skype e dovete aggiungere Testa Croce Show. E poi c'è il nostro blog dove c'è il nostro blog, c'è, non aggiungiamo Jelly, altro, c'è, non si muove, no. testacroceshow.blogspot.com. No, ma a breve lo aggiorneremo con un articolo molto importante, quindi giusto, se avevamo deciso qualche mese fa. Va bene, insomma, comunque succederà. Sì. Che facciamo? Andiamo nel vivo musicale della trasmissione. Sì. Dunque, ci sentiamo un pezzo dei Bud Spencer Blues Experience, che sono un duo romano, molto bravi, molto giovani, e ecco, sono partiti. Sentiamo. Questo è Good Morning Mike. Eccoci qua. Davvero un gran pezzo. È un gran pezzo di musica. Di blues. Eh beh. Non a caso si chiamano Bud Spencer Blues Experience. Infatti, Bud Spencer è un grosso pezzo di uomo. No, vabbè. Sì, sì, sono d'accordo. Bene, diciamo qualche notiziuola. Sì, sì, partiamo con un paio di ansa. Va bene, dunque, questa risale a qualche giorno fa, si parla di un sondaggio fatto negli Stati Uniti e pubblicato sul Journal for the Scientific Study of Religion. Dunque, praticamente è stato uno studio fatto su scienziati atei e praticamente è rilevato che il 17% di questi scienziati ha partecipato a più di una funzione religiosa all'anno negli ultimi anni. Ora, questo campione appunto erano scienziati atei, va bene. Dunque, questo hanno condotto un esperimento erano anche a loro volta scienziati atei, però erano della Rice University, e cosa loro deducono questo dallo studio, che ciò mette in luce lo stretto legame tra religione e famiglia nella società statunitense. Religione e famiglia. Sì, dicono che è così importante che anche le persone meno religiose riservano alla religione un posto importante nelle loro vite private. Sì, sì, sì. Insomma, ma no, in parte è vero, perché comunque si sente spesso dire per esempio, faccio l'esempio dei battesimi, no? Io ho mandato mio figlio al battesimo, al catechismo. No, si sente dire, non da me, per carità. Si sente vabbè. Dire spesso, ho mandato mio figlio al catechismo per... Una carrambata, vabbè, dai. No. Perché lo fanno tutti, no? Perché se no sarebbe da solo, perché se no mi chiede se perché gli altri bambini ci vanno, io no, eccetera, ma non perché magari ci crede veramente. Infatti, molti degli intervistati hanno detto che andavano a messa perché avevano un partner credente, vabbè, e quindi potrebbe essere anche un figlio, un parente, certo. O per la comunità religiosa in senso sociale, cioè proprio avevano piacere a far parte di quella comunità, ma come persone, non per per il fatto che fosse per socializzare, religiosa. Insomma, via. Vabbè, sì. Un'altra ansia, questa veramente delle ultime ore, apparsa da poco, proprio oggi, sul blog di Focus. Focus, il giornale, il mensile. Sì, sulla scienza, che però appunto ha un blog. Parlerà dell'astronave che è stata vista su Mercurio. No, quello ne abbiamo parlato alla scorsa puntata. No, qui si parla di Stonehenge. E un gruppo di geologi inglesi ha scoperto che il primo circolo di pietre di Stonehenge fu realizzato 5.000 anni fa con massi che provenivano dal sud-ovest del Galles, nei pressi di Pont Season, a centinaia di chilometri di distanza. Secondo... Cioè, questa è la scoperta? Questa è la scoperta, sì. Cosa si credeva? No, non era, diciamo che non era precisamente localizzato il luogo da cui erano state prese. La cava, okay. Esatto, invece adesso è stato localizzato con assoluta precisione. Secondo Robert Ixer, penso sia questa la pronuncia, dell'Università di Leicester, e Richard Bevins del National Museum of Wales, gli enormi megaliti furono trasportati per 250 chilometri, molto probabilmente con imbarcazioni. Mazza. E questa tesi conferma l'ipotesi secondo cui il tempio megalitico era qualcosa di più di un osservatorio astronomico, era il ritrovo per occasioni solenni e magiche. Feste anche. Certo, naturalmente, solstizi, equinozi, eccetera, eccetera. 250 chilometri, 250 chilometri. Linea, Però comunque, questo diciamo non vuol dire... Si ipotizzavano distanze... Anche questo... anche minori, sì, comunque sì. Insomma, è una bella fatica. No, è una bella fatica, sì, cioè... implica un impegno notevole. Ma tra l'altro, non, questo non vuol dire che siano stati esseri umani, no? Possono essere stati alieni ad aver usato imbarcazioni, sì, o giganti. No? Quindi resta giganti tutto aperto. Su imbarcazioni giganti, anche ovviamente. Sì, alieni. Beh, questo mi fa venire in mente una cosa flash che ho scoperto giusto in settimana, perché sono stato qualche giorno a Torino, sì. E vabbè, questo c'entra poco, però sono stato a un incontro con varie tematiche spirituali, fra cui c'era un'interessante conferenza su dei templi che sono stati scoperti non poco tempo fa, ma sono poco noti, a Malta, dei templi megalitici addirittura, di cui si sa pochissimo, non so se tu ne avevi sentito parlare. No, assolutamente no. Sono circa una trentina, di cui una decina conservati anche molto bene, uno è sotterraneo, e praticamente, appunto, nonostante siano insomma, tutti concentrati su un'isola molto piccola, fra l'altro, non se ne sente parlare niente, e invece sono molto interessanti, e quindi vi invito, se volete fare delle vacanze, andare a Malta, anche perché certo. Pare che appunto non essendo noti, non si trovano visitatori, non si paga nessun biglietto. Ma ora, dopo che l'abbiamo detto in radio, hai rovinato tutto, perché ma tanto torme di persone andranno a Malta. Vabbè, ma andranno quelle a cui l'ho consigliato io, e quindi è giusto farlo. Certo, assolutamente. Bene. Vogliamo cominciare con la prima domandona esistenziale, dai. Dunque, allora, la prima domanda che avevamo posto era, cos'è sacro? Sì. Bene, ci ha risposto qualcuno? Ci ha risposto qualcuno, sì, Francesco. Ad esempio, ci ha risposto che testa Croce Show è sacro. Ecco. No, è un ottimo nostro domanda. Show. Sì. È una, insomma, un tentativo veramente basso di assicurarsi la vittoria. No, secondo me ci credeva invece. Sì. E poi ha smesso, perché ricordiamo che era la prima puntata questa, poi dopo ha avuto modo di cambiare idea. Di cambiare idea, d'accordo. Bene. Diciamo la nostra, allora, a questo punto. Sì. Vai, Gab. Dico la mia. Per me sacro è tutto ciò che una persona considera inviolabile da parte di altre persone ed eventi. E quindi ovviamente è un concetto molto soggettivo assolutamente. Me. Sì, per quindi me su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo sul fatto che sia un concetto soggettivo. No, per me invece il sesso è sacro. Sì. Proprio quello. Bene. Sì. E abbiamo chiesto al nostro tecnico, che tra l'altro è qui naturalmente, Federico, di partecipare, no? di dirci la sua anche su queste domande. Lui ci ha detto che, riguardo appunto a cosa è sacro, ha risposto così. È qui, però io lo leggo perché il tecnico, come ci ha ricordato, deve essere muto. Allora, credo che il concetto di sacro, così come quello di profano, non si possano schematizzare. Appartengono all'interpretazione di ciascun individuo. Questa interpretazione è dettata da molti fattori, credo religioso e morale in primis. L'unica cosa a cui mi sento di poter affiancare il concetto di sacro è il concetto di vita. Mm. Beh, ecco, una risposta quindi, sì, più, un po' più articolata delle nostre, però... Ma va bene, ma insomma... No, va bene, a volte... Bastano a volte poche parole. L'importante è dire quello che si pensa, comunque. Sì, sì. Naturalmente i nostri ascoltatori ci possono rispondere anche in questo momento, no? Sì, sì, io l'ho detto anche nel... nella email che ho mandato qualche ora fa, siete sempre in tempo finché non facciamo un'estrazione, esatto. Potremmo cambiare idea anche sui nostri preferiti e magari vincerete. Io non ho nessuna idea sui miei preferiti, io ricevo delle rivelazioni, ma non so se succederà o no. Ma è già successo? È già successo per il momento, però vabbè, dovresti ricevere una rivelazione diversa. Sai, le vie del Signore sono infinite e misteriose, imperscrutabili, quindi non si può dire a priori. Ecco. Bene, direi diciamo un'altra, poi... Ma io la direi anche dopo. Che dici? Ah, partiamo... Partiamo con... mandiamo un secondo pezzo, però lo volevo introdurre. Giusto. Dicendo appunto, giusto, oggi è giovedì 22 dicembre, i santi del giorno non sono particolarmente esaltanti, nel senso, no, niente contro chi ha dato questi nomi, però San Floro, San Demetrio, San Flaviano e addirittura due santi onorato. Quindi sento onore, insomma. Santi onorati. Ma il primo è San Floro. Floro. Ah, Floro. Quindi auguri a così. Floro Demetrio Flaviano onorato e poi di nuovo auguri a onorato. Banalità proprio. Vabbè. Nati oggi, quindi se fossero vivi festeggerebbero il compleanno l'imperatore Diocleziano, Jean Racine, Giacomo Puccini, Giacomo Manzù, che è uno scultore, Jean-Michel Basquiat, che è un altro artista, poi ancora viventi invece, quindi oggi è il loro compleanno e gli facciamo gli auguri, l'avvocato Niccolò Ghedini, il nostro amico praticamente personale, sì, che stimiamo tantissimo. Tantissimo, e poi la cantante, ora io al solito la pronuncia francese non la so, Vanessa Paradis, che compie 39 anni e quindi volevo festeggiarla con un pezzo, che con anche il suo un maggiore cognome successo, molto a tema, molto a tema, sì. Con il suo maggiore successo, che è dell'87 se non mi sbaglio, e si chiama Joe Le Taxi. Auguri Vanessa. Auguri Vanessa. Bienvenue, c'est Joe. Eccoci. Questa era Vanessa Valhalla, giusto? No, Vanessa Paradis. Ah, vabbè. Con Joe Concorrenza. Taxi, cantata a 15 anni. Beh, andiamo avanti con le domande. Sì, Dunque, qual era la seconda domanda, Vince? La seconda domanda che abbiamo posto è: come conciliare l'esistenza del male con quella di Dio? Problema spinoso. Problema molto spinoso. Al quale il nostro Fede risponde: confesso che si fa fatica a immaginare un Dio volgendo lo sguardo a tutto il male che ci circonda. Ed è difficile anche capire al fine di quale disegno, se esistesse un Dio, egli possa permettere tutto questo male. Credo però anche che il male stesso sia insito nell'uomo e sua stessa responsabilità, sua e di nessun altro. La relazione che può esistere tra il bene, Dio e il male rappresenta, secondo me, il modo in cui cerchiamo, da che l'uomo esiste, di trovare una sorta di riequilibrio in ciò che ci circonda, così come per il concetto di sacro e profano. Ecco, fateci sapere cosa ne pensate, naturalmente dialogate con noi, e tra le altre risposte che abbiamo ricevuto ricordiamo ad esempio quella di Jacopo, che ci ha detto: ci sono dei buoni e dei cattivi e il male è inventato dagli dei cattivi, ma alla fine i buoni vinceranno, Jacopo sa anche quando, nel 2033, è una questione di cicli cosmici. Quindi abbiamo anche un'altra bella profezia. Vabbè, sì, tra le altre, sì. E poi Manfredo invece ci scrive: il male nel mondo, beh ragazzi è facile, la logica del mondo è nota solo a Dio e l'uomo non può capirla fino in fondo, i piani di Dio non ci sono noti, quello che ci sembra male in realtà è bene. Però. Sì, ci sarebbe da appunto da scrivere libri, fiumi di inchiostro su questo, assolutamente sì. Va bene, a questo punto dico la mia. Dilla tua. Che semplicemente molto in linea con quello che dice il nostro tecnico Fede, cioè io non credo in Dio, quindi... se dovessimo postulare l'esistenza di un Dio, come scriveva sul anche piano teorico, dai. Sul piano teorico, ipotetico, appunto, anzi, scusa. Sì, dovrebbe essere. Ecco, secondo me il problema, più che con l'esistenza di Dio, perché appunto potrebbe esserci un Dio cattivo, no? Che spiegherebbe di per sé l'esistenza del male, il problema è conciliarlo con l'esistenza di un Dio onnipotente e buono, no? E fatto di amore perfetto. Sì, sì. Quindi più che altro, secondo me, il problema è questo. Quindi, beh, c'è la l'esistenza soluzione di un Dio non è nessun problema. Infatti, la soluzione di Manichea è una delle tante, sì, possibili. Sì, sì, o dire che siamo semplicemente governati da un genio cattivo, esatto, un genio maligno, no? Come diceva Cartesio, per esempio. In via ipotetica, naturalmente. Sì, sì, sì. E la tua Gab? Beh, dunque, ovviamente, appunto, ci sono state vari stratagemmi ideati da pensatori, filosofi, religiosi per risolvere questo conflitto, che generalmente crea molti problemi, appunto, al clero anche, perché certo, e anche gente molte si chiede come mai c'è questo male, Dio assolutamente. Eccetera, eccetera. Comunque, per me basta capire che il concetto di male è soggettivo e poi non va necessariamente considerato Dio come un protagonista attivo della nostra esistenza. Quindi, se non è attivo, è passivo. Appunto, quindi non è l'autore del male, ma magari è semplicemente, che ne so, dà un impulso, poi se ne va, il male a quel punto non è colpa sua, avviene per cause successive, per le nostre azioni, ad esempio. Questa è un'ipotesi, ma sinceramente, appunto, è solo una delle possibilità. Ci sono vari modi per conciliare l'esistenza di Dio con quella del male. Si va avanti con la prossima? Sì, sì. La terza, che è? Può esistere una morale atea? Ecco, cioè c'è bisogno di credere un Dio per avere una morale, un'etica, insomma. E ad esempio Jacopo ci ha risposto così: la religione deriva dagli alieni e quindi la morale. Cioè, quindi, no, diciamo, dagli alieni. Ah, scusa, dagli alieni. Non so se sono la stessa cosa. Lui ha scritto con doppia J e doppia E, e non penso sia casuale. No, cioè, è molto attento di solito alla grafia. Probabilmente ha un significato tutto ciò. Quella di fede, quella di fede. Dunque, la morale può esistere a prescindere al di là delle religioni e delle non religioni. Tutti noi abbiamo, o forse dovrei dire dovremmo avere, una nostra condotta morale dettata dalle regole che imponiamo e rispettiamo. Queste regole fanno parte della nostra quotidianità e ci conducono a rispettare una certa etica. Sì. E adesso, la mia risposta è questa: se per ateo si intende non credente in un Dio, può sicuramente esistere, purché però si ritenga che ciò che si compie in vita influisca in qualche modo in un successivo stadio di esistenza, al di là vite successive, eccetera. La credenza nel nulla dopo la morte rende invece senza senso parlare di morale, secondo me, e non solo, ma giustifica cose come il suicidio, secondo me, in quanto porta in una condizione di non esistenza dove è assente anche il rimpianto per una vita perduta, di conseguenza secondo me porta anche a questo. Però appunto la morale atea può esistere, secondo me, se per atto si intende non credente in un Dio. Certo. Però se non si crede, secondo me, in qualcosa dopo la morte, allora è difficile. Ma si può parlare di etica, infatti. Cioè c'è una differenza tra morale ed etica, no? Non staremo qui ad approfondirla, infatti, perché non è il caso, però insomma... Infatti, sarà magari una domanda dei prossimi concorsi. è praticamente questa. Cosa? È praticamente questa domanda qui. No, più che altro qual è la differenza tra morale ed etica, ecco. La mia opinione è sostanzialmente in linea anche qui con quello che ha detto già Fede, cioè assolutamente sì, c'è un'etica, ci sono dei principi che prescindono assolutamente dalle proprie credenze. E a questo proposito vorrei appunto ricordare un personaggio che è scomparso una settimana fa, che è proprio tra addio. Poco no non è no, poche non ore è Dio, ah, non tipo, è... addio, ah, addio, addio. No, no, no. Poche ore dopo la nostra trasmissione, tra l'altro, è scomparso Christopher Hitchens. Non è è collegato alla trasmissione. Ma sai, le collegazioni... Sentiamo chi è prima, non vorrei fare delle gaffe. No, Christopher Hitchens è un intellettuale del nostro tempo, un giornalista, uno scrittore e un rappresentante del New Atheism. Quindi uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. Dopo quale trasmissione? Quella proprio su... Dopo la nostra, no, poche ore dopo la nostra ultima puntata di Testa Croce. Ah, cioè proprio 7 giorni fa. Quindi proprio in seguito a quella su, sul New Age. No, una settimana fa. No. E Christopher Hitchens, appunto, ricordato per i suoi libri, ad esempio Dio non è grande o La posizione della missionaria sulle nefandezze di Santa Teresa. Della missionaria, di Madre Teresa. Della missionaria, sì. La posizione della missionaria. Ma c'è un riferimento sessuale o ma sbaglio? Sì, un doppio gioco. È ironico. Di parole, ma ironico, naturalmente. Votato quinto tra i 100 massimi intellettuali del nostro tempo da un sondaggio Foreign Policy nel 2005. Nella sua ultima apparizione pubblica disse a chi lo ascoltava: vivi tutto quello che puoi, non farlo è un errore. E ad esempio Salman Rushdie, Rushdie, scrivendo premio lo scrittore Nobel, islamico, sbaglio, anche. No, non penso che sia premio Nobel, però insomma scrivendo su Twitter ha salutato l'amico Hitchens: una grande voce si è spenta, un grande cuore si è fermato. Ora Hitchens è morto di cancro d'esofago a 62 anni. E l'ultimo libro pubblicato, l'ultimo libro pubblicato è Hitch 22, cioè una sua autobiografia che ricalca Catch 22, il celebre romanzo di Heller. E perché c'entra con il discorso dell'etica atea? Perché volevo ricordarlo con una frase, diciamo, una citazione da Dio non è grande, che recita così: il principio di Kant dice: agisci come se la massima della tua azione dovesse essere elevata dalla tua volontà a legge universale della natura. In questa sintesi di interesse reciproco e solidarietà non c'è bisogno di alcuna autorità soprannaturale e costrittiva. E perché dovrebbe esserci? L'umana decenza non deriva dalla religione, la precede. Ciao. Bene. Hitch. Comunque ho dato un'occhiata, Rushdie no, non ha vinto, ha vinto molti premi letterari ovviamente, ma beh, no, certo. non quello che in effetti... E tra l'altro... Insomma, ha scritto per il sociale molto. E quindi, tra l'altro è stato perseguitato, no? Sì, dal sì, punto sì, di vista religioso. Pesantemente. Andiamo con un pezzo dopo queste notizie un po' intense, così ci risolleviamo un po' il morale. Ma andiamoci. E vi propongo un pezzo natalizio. Dall'album... Mannaggia. Perché? È Natale, ce l'avevamo dimenticato. Ce l'avevamo dimenticando, ma è Natale. Un album natalizio dei Crash Test Dummies del 2002, Jingle All The Way, in cui hanno proposto delle esecuzioni di brani tradizionali, e ci sentiamo la mitica voce di Brad Roberts e quella di Alan Reid che eseguono God Rest Ye Merry Gentlemen, che è un brano non conosciutissimo dalle nostre parti, forse. Non da me, ma dalle loro sì. Ma sono curioso di ascoltarli. Rest, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember, ci risiamo, amici ascoltatori. Dopo questo pezzo straordinario del grande Brad, voce profonda, baritonale, da canterebbe benissimo in un coro ecclesiastico, di crichetti, sì. Andiamo con l'ultima domanda. Ci avviciniamo alla premiazione. Sì. Dunque, l'ultima domanda era: quali sono i vostri programmi per l'aldilà? Cosa vi aspettate di trovare? È stata una... quella di maggior successo. L'ultima anche in ordine di tempo, c'è stato meno tempo, diciamo così. Sì. Comunque, dunque, il nostro Fede ci dice che non crede che ci sia niente, e comunque questa è una risposta, ovviamente. E concordo anch'io. È la stessa. Io invece mi aspetto un grande buio accogliente ammantato di silenzio, dove tutto è immobile. Comunque, abbastanza simile in realtà. Spero che sia stato colto, forse non è stato colto quello che intendevo, cioè mi aspettavo che potendo inventare qualunque cosa si desse sfogo alla fantasia. Ah, proprio una questione, sì, cosa sì. Vorreste più che altro. Sì, ma non necessariamente, se uno ovviamente ha una credenza può dire quella, certo, però non avendola puoi insomma immaginarti quello che vuoi, secondo me è bello farlo, anziché aspettarsi il niente totale. Questo che ho detto io non è per me il niente, è una condizione comunque ben precisa, con delle caratteristiche ben precise che mi piacerebbe trovare quando, sì. quando terminerò il mio ciclo di reincarnazioni. Ah, addirittura. Va addirittura. Bene. Non entriamo in questo vespaio, però no, meglio di no. Dai, è il momento, eh? È il momento tanto atteso. Ma abbiamo mandato ora il pezzo. No, è il momento di premiare i nostri ascoltatori. Dunque, ci sono state rettifiche dal dio con cui comunichi, Vince? Non ci sono state rettifiche, ma vorrei innanzitutto, penso che sarei d'accordo, ringraziare tutti quelli che hanno partecipato finora, che hanno dialogato con noi, che ci hanno scritto, che ci hanno dato suggerimenti di qualsiasi tipo. Sono stati tanti. Cospettone. Abbiamo una domanda, una risposta sul filo del rasoio. Oi boh, sentiamo, potrebbe cambiare tutto. Dunque, è una risposta di Jacopo. Ah. Mm. Alla l'ultima domanda, che se non sbaglio, penso di sì. Dunque, la risposta è questa: una serie di specchi, esattamente come nella vita, che si possono attraversare solo con una presa di coscienza, se no reincarnazione. Ok, esatto. A scelta, ci dice Fede. Sì, in ordine, se manca quello, la reincarnazione come seconda scelta. Beh, ho i brividi. Una bella risposta. No, gli specchi però è interessante. Vedi, questa è una risposta. Come io speravo che in tono con la tua, sì, con la tua intenzione, bene, d'accordo. Dicevo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto finora, che sono tantissimi, da Andrea, Federica, Dragona, Manfredo, Paola, Anthony e tantissimi altri, insomma, Francesco, va bene, poi gli ospiti, ringraziamo gli ospiti che hanno dialogato con noi. E è il momento. Noi, come vi avevamo preannunciato, abbiamo i finalisti, però la decisione finale del vincitore assoluto è affidata a un tiro di moneta, no? Un perfetto, insomma, fatto in sintonia. Diretta, secondo le leggi della probabilità. Assolutamente. È una moneta, insomma, da un euro. Beh, una moneta preziosa, come preziosa. Che non è bilanciata. Io ho studiato probabilità e posso dire che non è del tutto bilanciata, però diciamo che sostanzialmente va bene, 50 va bene, e 50. Sì, sì. Qual è il problema? No, non ha testa e croce, la moneta da un euro, quindi stabiliamo un valore alle facce. Esatto. Dunque, l'uno sarà la croce. Ah no, io pensavo la testa. Vedi? Bene, tiriamo la monetina per vedere. No, va bene, va bene che l'uno è la croce. L'uno è la croce e il resto e l'altra è la testa. Allora, però Fede, il nostro tecnico, dobbiamo dire a chi corrispondono anche queste. Hai ragione. Allora, io propongo in realtà la divinità mi ha rivelato che tu obbedisci, e io obbedisco ciecamente, che la finalista, in realtà la possibile vincitrice, è Federica, che ci ha ascoltato, ci ha seguito per quasi tutte queste puntate e ha partecipato con noi. Bene, io anche per l'ardire di rispondere sul filo del rasoio, candido Jacopo, mi sembra potenziale giusto. Vincitore. Quindi la croce è Jacopo, direi. Sì, sì, sì. E la testa è Federica. Fede, prego. Ecco qua, avete sentito il rumore. Ci dice Fede che è uscita a testa e non mi ricordo visto. Più a cosa avevamo assegnato. È Federica. Vi confermo, sì, ho visto il risultato, è effettivamente uscita a testa. Quindi Federica è la nostra prima vincitrice assoluta. Sì, tra l'altro era molto contenta di pregustava il Valhalla. Perché sì, si chiedeva anche se insomma cosa c'era di preciso nel Valhalla. Esatto. Insomma. Benissimo. Sì, ricordiamo appunto, nel Valhalla ci sono tanti uomini nerboruti, tanta birra, tanto godimento, insomma. Esatto. E Federica se lo gusterà insieme a chi vuole. Esatto, farà un regalo molto originale, può venire a ritirarlo in spirito. L'attendiamo in Obe. Se vuol portare Jacopo, naturalmente. Beh sì, potrebbe essere un bel incontro. Chi secondo lo me sa, sì, lo sai. No, ma tra l'altro c'era un premio di consolazione. Ma Jacopo, ricordo che è fidanzato, quindi non penso. No, però vabbè, che c'entra? Poi una volta nel Valhalla, lì c'è una cultura un po' più libera. Beh sì, sì, no? È una possibilità, dai. Dicevo di un premio di consolazione che assegniamo al finalista che non è stato, che la sorte non ha voluto premiare, ecco. Bene, vuoi dirlo tu? Dico il premio intanto. Sì. Bene, il premio è l'apertura del primo chakra. Esatto. Dunque, come sapete tutti, i chakra sono dei punti legati alla tradizione indiana e altre tradizioni, insomma centri energetici. Il primo è situato... vuoi dirlo tu, Vinci? Ma no, non me la sento, no? È situato in basso. Diciamo tra... In basso, l'osso sacro, dai. Sopra il ginocchio, sotto l'ombelico. Sì, l'osso, più o meno la zona, quella zona lì. Vicino al pube, comunque. Sì, il nome tecnico è Muladhara. Muladhara. Quindi noi presa d'aria anche. No. Quindi noi offriamo l'apertura del Muladhara al finalista. Ovviamente che... non c'è bisogno di farlo fisicamente, ci tengo a precisare, cioè non è un buco fisico, quindi non è, no, non è un buco doloroso, fisico. Si fa semplicemente con delle, sì, con delle, insomma, tecniche spirituali. Noi le sappiamo, voi no, certo. Non ve le diciamo, però comunque vi assicuriamo che, insomma, nel giro di qualche giorno assicuriamo il vincitore, che non abbiamo detto ancora chi è, che avrà, avrà aperto il primo chakra, sì. E noterà delle belle differenze nella sua vita, secondo assolutamente me. Un buco in più fa sempre sì. Dunque, no, chi... ma tranquillo, è Francesco il nostro ascoltatore, che ha individuato correttamente, tra le altre cose, il primo indovinello musicale, no, che abbiamo proposto. E Francesco, niente, quando vuoi noi possiamo, siamo pronti ad aprirti il Muladhara. No, che ridi. No, nulla. Sembra un premio che, insomma, ambito. Peccato non abbiamo detto subito, altrimenti ci sarebbero stati più, sì, sicuramente. Ma direi che possiamo, appunto, estenderlo anche al finalista che non è stato sorteggiato, cioè Jacopo. Ah, no, beh, no, lui diventa il perdente. Non ce la facciamo. Schiacciato con infamia per essere arrivato a un passo dalla vetta, ma non aver vinto. D'accordo, allora niente di niente, proprio solo Francesco. Sì, poi, vabbè, ci arriva una comunicazione, sì, se è possibile aprire anche il primo chakra al tizio che l'altro ieri mi ha tamponato con la macchina. Beh, non diciamo, non diciamo da chi arriva, però, insomma, non diciamo neanche chi è questo tizio. È possibile. Dunque, in questo caso, non essendo dentro il concorso, si paga una rata, sì, una modica cifra che si moltiplica il numero del chakra per 100 euro e si ottiene il costo. Quindi potete immaginare, no, che per ciascuno, tra l'altro, sì, beh, a testa, ovviamente, a testa, sì, perché sì, sono cose che si fanno meglio in due. Esatto, sono cose che si fanno meglio in due, sì. Bene, premiazione fatta, direi di passare a un po' di musica. Sì, per rilassarci, sì, un po'. Andiamo su un pezzo dei Blur che conoscerete probabilmente tutti. Questo è Charmless Man. Ce lo sentiamo. Sì, dai, lo conoscete, secondo me, lo conoscete. I met him in a crowded room. Eccoci tornati, amici di Testo Croce Show. Siamo di nuovo qui dopo il momento intenso della premiazione. Bene, vi ricordiamo un attimo i nostri contatti. Sì. L'email è testocroceshow@gmail.com. Skype è Testo Croce Show. E il blog è testocroceshow.blogspot.com. Dove troverete anche tutte le opinioni, sì, a cui abbiamo dato voce. E vi assicuro un aggiornamento prima della prossima puntata. Cioè, tempo c'è. Ah, quindi. Sì, certo. Bene, diciamo qualcosa sulla festività, sì, che sta per giungere. Sì, no? Siamo in chiusura, appunto, diamo un piccolo spazio al fatto che siamo in periodo di feste. E, il giusto. Sì, anzitutto queste feste, come si sa ormai, derivano da una festività pagana, no? Il Sol Invictus. Sì, in esteso Dies Natalis Sol Invictus, quindi è riferito alla rinascita del sole, fra virgolette, dopo il solstizio, quindi dopo il momento più buio dell'anno, torna a aumentare la luce durante il giorno. Il sole ovviamente è sempre stato associato a una divinità, sì, in particolare questo appellativo era affibbiato a El Gabal, Mitra e Sol stesso. Sì, sì. E poi, appunto, gli imperatori romani l'hanno associato alla festività cristiana, no, della nascita di Cristo. Sì. È stato Elio Gabalo, non a caso è il nome, tradisce. Sì. Sì, non so se è nome nomen, oppure se semplicemente, insomma, se è dato il nome in seguito a questa attività. Se lo sapete, scrivetecelo, ascoltatelo. No, non scrivete. No, scrivetecelo. A me interessa. Vabbè, scrivetelo all'email personale di Vince, che ora vi vado a dire. No, meglio di no. Vediamo un po' come queste festività vengono, diciamo, interpretate, vissute, no, dalle varie religioni principali, diciamo. Faremo un po' di censura, ovviamente, parliamo, sì, di quelle più sì, sì, sì, con più fedeli, direi, a occhio e croce. No, non proprio, però comunque, insomma, quelle più note, sì, forse. Sì. E giusto, dunque, qualche notizia, appunto. Dunque, allora, i musulmani ovviamente non ritengono Gesù figlio di Dio, ma lo ritengono comunque un grande profeta, tanto è vero che sarà, secondo loro, araldo che annuncerà il ritorno di Maometto alla fine dei tempi. Quindi comunque una figura importante, però certo. Ovviamente essendo il Natale, la nascita di per i cristiani, la nascita di Gesù non lo è ovviamente per i musulmani, non è una festa, però comunque hanno una festa in questo periodo, che è la festa dell'Ashura, che è stata il 5 dicembre scorso. Quest'anno cambia, non è sempre sì, perché il calendario islamico, come esatto. Tutti i calendari di religioni diverse, sono sfasati, no? Quindi... sì ovviamente tanto è tutto relativo, lo sappiamo, certo. Bene, assolutamente. E poi però comunque hanno il capodanno che è stato il 26 novembre addirittura, quindi è passato da un bel po'. Bene. In che anno siamo secondo? Siamo nel 1433 dopo l'Egira, se sì, non sbaglio, sì. Per gli ebrei invece, Gesù è percepito la fonte delle loro disgrazie, durante 20 secoli diciamo, l'hanno percepito come la fonte delle loro disgrazie, un falso profeta che aveva malinterpretato la Torah. Beh, dai, quindi gli ebrei non festeggiano non il Natale. Non alimentiamo scontri religiosi, no, assolutamente, però d'altra parte non festeggiano il Natale. Da una cinquantina d'anni gli intellettuali ebrei si sono messi a leggere i Vangeli e a riconoscere Gesù come uno di loro. Per i più aperti Gesù è nostro maestro ma non nostro Dio. Ecco, una posizione che si avvicina un po' a quella musulmana. Sì, molto lentamente. Vagamente, però c'è una festività contemporanea molto importante in questo, insomma, che è in corso proprio e finirà il 28 dicembre. Quindi buona Nukkà. Buona Nukkà, esatto, la dedicazione, che è conosciuta anche come festa delle luci. In ebraico la parola Chanukkà significa dedica. La festa commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme dopo la riguadagnata libertà, allora data dai greci. E al giorno d'oggi, durante le sere di Chanukkà, c'è l'uso di celebrare l'accensione delle candele in maniera pubblica. Le candele si chiamano Chanukkia. Il presidente della comunità, il rabbino capo, tiene un breve discorso, recita la benedizione sulle candele, i presenti intonano inni gioiosi ed eseguono tipici balli ebraici. Dolce tipico della festa è un bombolone chiamato sufganya. Ecco, quindi se... Che è un nome già goloso. È un nome che mi fa venire proprio la quina in bocca. Poi mi incuriosiscono questi balli ebraici, non avevo mai saputo che ci fossero. Anche a me. Dei balli tipici. Però, ecco, abbiamo altri ricordiamo due... che il Capodanno è stato invece il 29 settembre, Capodanno dell'anno 5772, precisione. Sì, giustissimo. Allora, ci rimangono un altro paio di religioni, però prima manderei l'ultimo pezzo del... serata senza indugi. Un pezzo che ci arriva da lontano, 1940, una delle canzoni più belle della storia secondo molti, cantata da una voce straordinaria, quella di Louis Armstrong, Satchmo. Non vi dico neanche che pezzo è, lo indovinerete subito. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Rieccoci in diretta, cari amici di Radio Cage. Si sente che è Natale, eh? Si sente, ma questa canzone non c'entra niente con il Natale, eh? È la sigla di apertura. Io la associo al Natale. Ma è ovvio, perché è la sigla di apertura e chiusura di Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Okay, e quindi sono quei film, no? Quei brani che ci teniamo vicini in questi momenti. No, io manifesto con tutta la forza il mio odio per la Disney, per i cartoni animati. Ecco, no, invece a me piacciono. A costo di tirarmi dietro l'odio dei nostri ascoltatori. Va bene, velocemente vediamo allora le ultime due. Sì. Per i buddisti, ovviamente Gesù Cristo non è figlio di Dio, perché non c'è un Dio... che è un Dio creatore per i buddisti, il Dio è ovunque, fa parte di tutto, è il tutto, e quindi non ha creato un figlio e non l'ha mandato, però danno molta importanza a Gesù, lo ritengono un bodhisattva, cioè un essere illuminato che ha rotto il ciclo di morte e rinascite e ha deciso di restare per trasmettere agli altri la saggezza e la conoscenza. Dunque però hanno il Capodanno che è ad aprile per una tradizione Theravada. Ci sono varie tradizioni buddiste, ricordiamo. Sì, principalmente due. Tra gennaio e febbraio per la Mahayana, cioè il grande veicolo. Sì. Siamo adesso nel 2555. Poi, sempre nella Mahayana, celebra a fine dicembre, inizio gennaio, la festa della Bodhi, cioè illuminazione. Se quest'anno appunto ci sono state serate relative a questa festività l'8 dicembre scorso, quindi un po' prima di un'illuminazione immacolata concezione. Esatto, sì. Ecco, gli induisti, diversamente dai buddisti, credono che il divino c'è, appunto, e che si manifesta nel mondo degli uomini. Per loro Gesù può essere percepito come un avatar, ecco, un po' come il film blu, può essere percepito, vabbè, no, voglio dire, come un avatar. Ma cioè Gesù come... è un avatar anche per i cristiani, no? Beh, no, io Gesù per è... avatar intendo la rappresentazione terrena del Gesù Dio, per i cristiani è l'unico avatar, invece per gli induisti ci sono moltissimi avatar. L'avatar. Esatto, sono delle incarnazioni del divino naturalmente, quindi per numerosi induisti Gesù è uno straordinario yogi, un eccezionale guru, un bhakta perfetto. A differenza dei cristiani, gli induisti non riconoscono l'unicità di Gesù e rifiutano la violenza propria di un certo numero di chiese cristiane, e va bene. Una festa contemporanea è la Dattatreya Jayanti, che si celebra tra novembre e dicembre, sempre per lo sfasamento dei calendari, in onore di Dattatreya, che è la sintesi della Trimurti, no? Cioè la, diciamo, potremmo dire la trinità induista, anche se non è proprio... Diciamo ci assomiglia. Ci assomiglia. Il Capodanno, vabbè, ce ne sono diversi anche qui a seconda delle tradizioni, quella più diffusa in Italia è il Capodanno Vikram, secondo il quale siamo nel 2065, il Capodanno è stato lo scorso 27 ottobre. Che bello, tutte queste date. Tutti questi diverse, capodanni, gli anni, queste gli feste, anni evviva, si festeggiamo. Mi piace questo relativismo. Bene, sì. Cosa possiamo aggiungere? Ah, sì, volevo segnalarvi una cosa. Appunto, oltre ad essere stato a questa serie di conferenze gratuite, ci tengo a sottolinearlo, a Torino, a vario carattere spirituale, anche di Hare Krishna. Potevi segnalarle la ma non lo sapevo, l'ho scoperto il giorno prima di andare, quindi... Ecco. Oltre a quello sono stato a visitare il Museo Egizio e ve lo consiglio perché è veramente molto bello, il costo è abbastanza limitato secondo me perché è 7,50 euro, quindi circa il costo di un cinema, e c'è veramente tanta storia ma anche tanta spiritualità secondo me in quel museo. Benissimo. E quindi se vi capita di passare per Torino visitatelo. Però non andate, ci andate a Malta. Oppure a Malta, sì. Malta c'è anche un bel mare, dicono. Quindi... Dicono, sì. Va bene, è arrivato il momento dei saluti, no? Sì. Ho già una lacrimuccia. Anch'io un po', sì. Tutte le cose belle finiscono. Vedo anche Fede. Anche Fede. Si asciuga le copiose lacrime. Sì. Che scendono sulla tastiera, rovinandola permanentemente. Speriamo che queste prime 8 puntate vi siano piaciute, speriamo che continuerete a seguirci, che vorrete darci suggerimenti, consigli, segnalazioni, i contatti. Speriamo di ritrovarci il prossimo anno. Speriamo di ritrovarci il prossimo anno, non si sa mai nella vita. I contatti sono la mail testocroceshow@gmail.com, il nostro contatto è Skype @testocroceshow. E il blog testocroceshow.blogspot.com. E vi ricordiamo radiocage.it. Naturalmente. Il sito, ci sono anche altri contenuti interessanti, sì. Articoli. E poi c'è un palinsesto, infatti dopo di noi va in onda dietro l'angolo. Sulle band, trasmissione sulle band locali. Sì. Vi ringraziamo tantissimo e vi salutiamo con anno, molto calore. Buon Natale, buona Epifania. Buona sigla. E chissà quant'altro. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao John. Imagine there's no heaven. See if you try.